un grande attaccante, quindi poi insomma una persona splendida, sì, veramente purtroppo ultimamente il calcio italiano perde pezzi, grandi calciatori, grandi personaggi, grandi umani soprattutto al di là del campo, quindi sì, è una notizia veramente brutta. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Stringe la posizione Bernardeschi, spalla alla porta, grande giocata per Dybala, Dybala! Un gol bellissimo, bello il tocco di Bernardeschi e stupendo il sinistro di Paolo Dybala, raddoppio della Juve. Nel calcio della vita ci sono i fatti e le opinioni. I giornalisti esprimono delle opinioni. Se uno ascolta le opinioni, gli viene in mente che stavano parlando di una squadra in disfacimento. Uno guarda la classifica, vede i fatti e questa squadra è prima in classifica. Ha fatto 2-0-0 in un momento particolarissimo della stagione, in un momento paragonabile a fine luglio, primi d'agosto. Quindi mi sembra che sono stati troppo ipercritici nei nostri confronti. Çalhanoğlu. Salemakers taglia, lascia spazio a Conti all'altra parte, controllo, dentro Leao, cross per lui, segna Rafael Leao, gioca così il suo primo pallone della partita, 4-1, segna Leao. Ho lavorato dall'inizio con passione, con serietà e cercando di mettere tutte le mie competenze a disposizione della squadra, ed è quello che vogliamo fare fino alla fine, perché credo che questo gruppo meriti di finire bene il campionato e meriti di portare questo club in Europa. Poi dopo quello che sarà il futuro si deciderà a fine campionato, ma non è in questo momento una mia preoccupazione, né sono solamente concentrato su quello che dobbiamo fare. Edoardo Lavezzano in redazione, Daniele Di Traino in assistenza, Filippo, no, non c'è Filippo Greggi, c'è Roberto Fresani oggi in regia con Gianmarco Ferronato dei montaggi. Ciao Pierluigi Pardo, lanciami un tweet. Ma il tweet sulla reazione della Juve, al di là poi parleremo, ovviamente l'abbiamo già ricordato, Serino Prati è veramente un 2020 che continua. Pazzesco. I due grandi numeri 11, abbiamo sentito purtroppo. Prima Riccardo Bigoni, infatti, ricordarlo. Assolutamente, però insomma, stando sull'attualità, è una reazione vera, indiscutibile, su un campo non facile, in un momento difficile, con il segno comunque dei propri giocatori di maggiore talento, mentre tanto arriva la notizia che Djokovic è positivo al Covid-19. Questo è un'ultima ora del tennis. Cioè, quindi no, cioè, tornando ieri sera, ha ragione Sarri nel sottolineare il fatto che la Juve è prima in classifica, i fatti e le opinioni, i fatti ad oggi, al di là delle opinioni, ci dicono che la Juve è prima in classifica, è ancora, come dicevo l'altro giorno, lo dico a maggior ragione oggi, padrona del suo destino, però è anche vero che i primi due obiettivi stagionali sono svaniti e quindi sì, un po' di pressione per una squadra abituata da 8 anni a vincere il campionato e non solo, questa pressione c'è. È un piacere trovare un grande amico come Massimo Mauro. Ciao Massimo. Ciao ragazzi. Ciao. Sì, molto bene. Noi molto bene. Djokovic, okay, diceva Pierluigi, meno positivo al Covid-19 in un mondo del tennis che ha diversi problemi incredibilmente in questo spicchio di giugno. Massimo, si chiedeva una risposta alla Juventus, è arrivata, come abbastanza scontato, è arrivata attraverso i colpi dei suoi campioni, Ronaldo Dybala, a quel punto per il Bologna si è fatta difficile, è una risposta sufficiente? No, intanto voglio dire, ha ragione Sarri, sono primi in classifica, però è bello giudicare la partita. La partita non è un giudizio sull'annata. Quello sull'annata si darà alla fine, però le due partite 0-0 sono state partite di plastica. Sì. Quella non è la Juve, no? Onestamente, ma metto l'accento proprio sulla libertà di giudicare la partita. No, poi il lavoro di Sarri e l'annata si giudicherà. Se la Juve perderà questo scudetto, saranno 9 anni e 8 scudetti, quindi sarà una cosa straordinaria per la società e per i giocatori che l'hanno vinto. Sarri è arrivato quest'anno e quindi potrebbe essere un problema per lui, ecco. Quindi poi per la reazione io credo che tutti ci attendiamo una Juventus che come dire, stracci la partita, no? Perché Sarri ha dimostrato in passato di arrivare alle vittorie attraverso il bel gioco e tante occasioni da gol. Ancora questo la Juve non l'abbiamo visto, ma perché la Juve credo sia costruita in maniera un po' diversa, ecco, quindi si affida ai suoi campioni e ieri hanno vinto la partita a Bologna con i campioni. Sì. Ma fra l'altro, scusami Carlo, proprio uno come Sarri sa benissimo che le opinioni contano, perché io faccio parte di questi. Sarri giustamente è uno che ci ha emozionato, che ci ha affascinato al di là dei risultati, proprio per la qualità del gioco che è riuscito a dare negli anni di Napoli, ma non solo. Quindi il fatto che esista una realtà e una libertà di poter giudicare la prestazione al di là del risultato, secondo me dovrebbe essere un cavallo di battaglia per Sarri, e lo è stato giustamente, perché se c'è un allenatore, fa parte di quegli allenatori che anche se non hanno vinto il campionato, pensa all'anno del Napoli così vicino, però hanno lasciato un'idea di bellezza e di qualità del gioco enorme. Quindi questa libertà ci deve essere lasciata. Io credo che Sarri sappia benissimo che quel Napoli lì giocava in un modo e che la Juve, vista per esempio nella finale di Coppa Italia contro la squadra di Gattuso, lui non può essere contento di quella partita. È chiaro, no? Ma il fatto è che Sarri lo valuti anche attraverso il tipo di gioco che porta al risultato, quindi è una valutazione molto più complessa. Io ho sempre la sensazione, Massimo, di una reazione chimica che funziona a intermittenza, no? Il calcio che chiede Sarri chiede un'adesione totale dei giocatori, che parte da un pressing molto alto, perché tutto comincia da lì. Non sempre lo vedo nella Juve. Guarda, io le grandi partite le ho viste dominare soltanto dal Barcellona di Guardiola. Quella squadra aveva Busquets, Iniesta, Xavi e Messi, e perciò riusciva a scardinare difese molto chiuse, faceva 10-15 occasioni da gol straordinarie anche in semifinale e in finale di Champions League. E questo lo si può fare se hai un certo tipo di giocatori. La Juventus onestamente ha giocatori che hanno vinto tutto in Italia e ripetutamente, però sono giocatori compassati, sono giocatori che hanno più qualità tecniche che fisiche, e quindi, ma anche come abituati a pensare, perché difendere in avanti devi essere sempre pronto dal punto di vista non della testa, devi fare la marcatura preventiva, anche se la palla ce l'ha un tuo compagno ti devi mettere nella posizione giusta. E quindi è difficile, e onestamente alla Juve l'abbiamo visto pochissimo, no? Quindi io credo che, siccome sarà un uomo intelligente, io l'ho sempre detto e scritto all'inizio del campionato, perché mi sembrava che Sarri si adeguasse un po' ai giocatori, e credo che stia tentando di farlo, perché il movimento di palla, il tourbillon di passaggi per arrivare al gol, io credo che con questi giocatori non lo vedremo mai, perché il centrocampo della Juve è un centrocampo molto compassato. Sì. E quindi si deve affidare ai 4-5 davanti. È anche vero, Massimo, che è difficile convincere chi ha vinto tutto attraverso altre strade, chi ormai ha anche una certa età anagrafica, che è calcistica naturalmente. È difficile convincerli a giocare in un'altra maniera, no? Tu sei stato un grande giocatore, cioè se arrivava lì l'allenatore rivoluzionario, lo guardi, cioè rivoluzionario entro certi limiti, lo guardi con un certo sospetto. Ma come? Io ho sempre vinto facendo così, perché devo cambiare? Quindi anche l'adesione di tutti i giocatori, secondo me, non è così che continua la Juve. Poi ovviamente parliamo da spettatori, può essere che è un po' diverso all'interno dello spogliatoio e i rapporti con i giocatori. Certamente sono dei giocatori che a gestire la partita sono i migliori al mondo, direi, e lo hanno dimostrato. Appunto. A imporre il proprio gioco ci sono riusciti in occasioni anche molto importanti, però insomma era un 80-20, sì, ecco, 80 gestivano e 20. Sì, sì, poi c'è sempre qualche equivoco, Pier. Pjanic ieri da sufficienza, ma non l'abbiamo ancora visto. Pjanic che conosciamo è quello che probabilmente andrà al Barcellona. Abbiamo rivisto Bernardeschi, che peraltro ha giocato un'ottima partita. Non era titolare dai primi di dicembre contro la Lazio, cioè una vita fa. Non so se si possa dire, ah beh, adesso la Juventus può contare su Bernardeschi. Poi sai, certo che può contare. Il mio sogno sarebbe vederlo terzino sinistro, visto che adesso hanno in una squadra però che attacca, ovviamente. Hanno un sacco di problemi e hanno un sacco di partite. Io credo che ci sarà spazio davvero per tutti. Douglas Costa è il giocatore, secondo me, fantastico nell'ultima mezz'ora. Perché condiziona la partita in positivo in maniera, no, perché con quella velocità e quel dribbling, quando hai le difese stanche, secondo me lui è capace di fare 5 occasioni da gol in 20 minuti col suo dribbling, no? Sì. Metterlo da lì, secondo me è molto meglio dall'inizio Bernardeschi, se devono giocare in quella, se deve giocare in quella posizione. Sì, poi bisogna capire anche cosa ne pensa Douglas Costa, Pier. Sì, io credo che l'idea di partenza, in ogni caso è chiaro che il modulo per Sarri è quello, e da questo punto di vista sicuramente l'infortunio della scorsa all'inizio della stagione ha condizionato in negativo la situazione, perché è chiaro che nella sua idea, già questa squadra pur fortissima non è esattamente, in questo un attenuante, cioè no, non è perfettamente aderente alla configurazione preferita da Sarri. La Juve è fortissima, indiscutibilmente, ma ha tantissimo fatturato, tantissimo talento. Diciamo che se Sarri avesse potuto forse cambiare qualcosa l'avrebbe fatto, quindi questo va detto. Detto questo, è una sfida fantastica per lui, chiunque vorrebbe allenare la Juve, questo non c'è da discutere. Quindi il modulo secondo me è quello. Bernardeschi, visto ieri, è un giocatore che torna a essere importante. Poi Douglas Costa, sono d'accordo, il giocatore può fare lo strappo l'ultima mezz'ora. Io credo che lì dipenderà sempre molto dalla condizione fisica. Ieri, devo dire, Bernardeschi è tornato con grandissima forza. Poi ci sono le cose incomprensibili, tipo Danilo, che insomma, francamente, vista anche l'emergenza del momento, ha approcciato la partita come se fosse veramente male male mentalmente non presente, no, sulla gara. Quindi questo proprio comunque di esperienza è abbastanza incomprensibile, però insomma, ripeto, ieri secondo me il bicchiere è assolutamente mezzo pieno. Sono arrivati 3 punti e non era scontato, e adesso ovviamente la pressione passa sulle inseguitrici, perché insomma la Lazio ancora non l'abbiamo vista ed è attesa dalla partita fondamentale contro una grande squadra, ed è un passaggio molto importante. E l'Inter, vedremo se potrà dare continuità, anche se la sensazione è che Conte abbia trovato sensazioni molto positive. Sì, Massimo, posso chiederti una valutazione complessiva su questa ripresa di campionato? Che squadra hai trovato? Ieri notavamo come insomma l'Inter sembra diversa rispetto a prima e migliore rispetto a prima. Quanto alle altre si confermano un po' i valori? Anche secondo te, ti chiedo anche questo, l'Inter ha la faccia di quella che può tornare in corsa? Sono d'accordo perché ha creato gioco, è riuscita a fare occasioni da gol, poi ha fatto vedere anche il solito problema, cioè quello che se non distrugge la partita poi crea la possibilità agli avversari di tornare in gioco, no? La Samp a un certo punto, no, le ha messi un po' in difficoltà, però hanno giocato bene secondo me sia contro il Napoli in Coppa Italia e sia contro la Sampdoria. L'Atalanta si è riconfermata, e questa è una grande notizia per tutti noi, perché è una squadra che ci ha fatto divertire. Vedremo la Lazio, però sì, guarda, io credo che sono molto bravi i giocatori e gli allenatori, perché vivere una situazione come quella che abbiamo vissuto, tornare a giocare senza spettatori, e comunque io, per esagerare, ho definite partite di plastica, però poi effettivamente adesso in campionato stanno avendo un ritmo diverso, si è visto qualche gol, perché le partite di Coppa Italia mi avevano un po' messo un po' paura. Invece si è rivisto un po' di divertimento, e perciò credo che vanno lodati sia i giocatori sia gli allenatori. Io invito anche gli ascoltatori, se vogliono intervenire, 800240024 e WhatsApp vocali 349-238-6666. Abbiamo visto anche il Milan, oltre a Fiorentina, che non riesce più a vincere 1-1, è tornato liberi, ha giocato molto bene, però 1-1 in casa con il Brescia è un po' poco, anzi è davvero poco. mentre tantissimi sono i gol Pierluigi che il Milan ha segnato a Lecce. Questo a me fa temere un po' per il fine campionato del Lecce, che rischia la Serie B, 4 gol. Beh, Lecce rischia, ma insomma, anche se avesse perso un altro risultato ieri, la situazione è questa, insomma, è nella lotta. È chiaro che ci saranno tante partite con tante squadre che si devono mettere in salvo. Al momento mi sembra che, insomma, almeno fino a quota 32, io penso che nessuno possa stare tranquillo. Addirittura Cagliari e Sassuolo, secondo me la stessa Fiorentina, non possono in questo momento essere troppo tranquille. Il Milan ha dato un segnale che secondo me è in linea con quello che si era visto a Torino. A Torino è stata una buona partita difensiva, 10 contro 11, di grande dignità, di grande organizzazione. Ieri è stata una partita invece di, insomma, buona reattività offensiva, 4 marcatori diversi, la capacità di reagire dopo il gol di Mancosu. Insomma, io ho visto una buona squadra, ho visto un buon Milan, compatibilmente a quella che è la sua dimensione, che non è onestamente, ovviamente, il Milan che i tifosi rossoneri sono abituati a conoscere, ma credo che Pioli stia portando avanti tutto con una grande dignità. I conti si faranno alla fine, e poi sì, insomma, perché il salto di qualità definitivo è ancora presto per dire che il Milan l'abbia fatto o che lo possa fare. Assolutamente, anche perché se Sarri dice giudicatemi non dalla singola partita eccetera eccetera, Pioli ogni volta, Massimo, deve dire vabbè, io sono qui, sto facendo il mio lavoro, siamo professionisti, andiamo avanti così. Però volevo dire vai, proprio vai. Questo ma una volta non si potrebbe sentire l'allenatore a dire la verità, e cioè tutto quello che mi ha combinato la società fino adesso mi rompe le scatole, però io sono un professionista e faccio il mio lavoro fino alla fine. Lo lascia sottinteso. Perché, ragazzi, però bisogna dirlo, perché onestamente al Milan non si può essere, non ci si può comportare come se si fosse una squadra di Serie D con un dirigente senza esperienza, no? Tutte le chiacchiere assurde attorno ai giocatori, agli allenatori dell'anno prossimo fanno ridere, onestamente. Quello che è successo con Boban, con Maldini, non sembra il Milan, sembra, no, una cosa che noi non abbiamo mai visto nel rosso nero. Sì. Quindi io capisco Pioli che è un bravo ragazzo e tutto, però insomma l'hanno fatto fuori. L'hanno fatto fuori, motivi abbastanza incomprensibili, se vogliamo, perché come per Gattuso non è sulla base dei risultati che ha ottenuto con la squadra che ha, che puoi dire ha fallito la stagione. Massimo, ti chiedo un attimo di pazienza, perché prima di salutarti voglio chiederti una cosa sulla Fondazione Viale di Mauro, perché sono stati giorni importanti. Ci fermiamo un istante e poi torniamo. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Penso che fuori si sia parlato troppo. Noi in questi casi dobbiamo fare quadrato e rispondere con i fatti come fatto stasera. È normale che quando succedono le partite, perdi una finale, poi ti interroghi su te stesso più che su quello che arriva da fuori. Noi ci siamo parlati come succede sempre, come è successo da anni nella Juventus, abbiamo avuto un confronto tutti insieme dove abbiamo indicato una strada. Se era la stessa di Sarri, quella che ha visto Bonucci di strada. Massimo, volevo chiederti appunto di questi giorni per la fondazione tua e di Gianluca Vialli. Sì, beh, sono stati giorni importanti perché è stata la ricorrenza della giornata mondiale sulla SLA, molto importante. Tra le altre cose, pochi giorni fa c'è stata la notizia del portiere tedesco che è stato anche a Barcellona, no? Che è stato colpito dalla SLA. Adesso non riesco a ricordare il nome, non so se vi metto in difficoltà, ma io non me lo ricordo. Però insomma, una notizia importante anche questa. Purtroppo il periodo non ci favorisce, perché non riusciamo ad organizzare eventi, perché i nostri eventi sono fatti da assembramenti, quindi per finanziare la ricerca, quindi siamo andati un po' in difficoltà, anche se abbiamo donato un mammografo digitale all'ospedale di Catanzaro, inaugureremo proprio il 3 il 3 luglio e quindi riusciamo comunque con quello che abbiamo fatto fino adesso a fare delle cose importanti. Speriamo di riprendere. Certamente, già che ci siamo, ti chiedo anche, poi ti saluto, una tua valutazione. Ieri Pierluigi è intervenuto su Radio Tweet iniziale, giustamente l'ha dedicato alle manifestazioni che vediamo da parte degli sportivi mai così schierati in questo momento sociopolitico. Abbiamo visto Lukaku, abbiamo visto su ogni campo, in ogni paese, abbiamo visto Hamilton in corteo. Abbiamo visto gli sportivi mai così impegnati in prima linea. Non trovi che sia una sorta di svolta? Fanno benissimo, sì. Fanno benissimo perché comunicare è fondamentale, non lasciare soli soltanto le persone che vanno in piazza, ma soprattutto chi ha la possibilità di fare comunicazione arrivando a chiunque, perché questi campioni, grazie a Dio, hanno Twitter, hanno Instagram e arrivano a milioni e milioni di persone. Fanno benissimo a farlo, perché tutto questo nel 2020 è inconcepibile. Tutto quello che è successo in America e che succede quotidianamente è davvero inconcepibile. Sì. E ieri in Manchester City Barley, come probabilmente saprete, c'è stato questo aereo di alcuni sedicenti tifosi del Barley con lo striscione White Lives Matter, insomma tutte le dichiarazioni dei giocatori, quindi chiaramente polemico e provocatorio, tutte le dichiarazioni dei giocatori, dell'allenatore, della società, del Barley sono state assolutamente nettissime, senza se e senza ma, di condanna di questo striscione. Guardiola l'ha spiegato benissimo, le vite bianche contano, non tutte le vite contano, ci mancherebbe altro, il problema è che ci sono delle vite che spesso in alcune parti del mondo vengono invece discriminate, e questa cosa è una cosa vergognosa. No, io credo che sia una battaglia di tutti, la Premier League, sai, che scende in campo con tutti i giocatori, sì, con la maglietta, sì, bellissimo, con il posto del nome. Sì, no, ma vedi, al di là dei social, sono proprio i comportamenti pubblici dei giocatori, perché social, giustamente ricordato Massimo, raggiungono milioni di persone, però vederli così fisicamente manifestare in questo modo a me, certo, fa... Certo, ma è proprio l'esempio, ma soprattutto è la normalità, nel senso che soltanto... Onestamente, chi ha problemi può pensare che la discriminazione sia accettabile. Se una persona sta bene di capoccia non può pensare che la discriminazione sia accettabile, e il mondo dello sport è un mondo che le discriminazioni non può concepirle, perché conosce soltanto la religione del talento, dell'impegno, e poi vince veramente il migliore in campo. Quindi chi ama lo sport non può essere razzista, e l'esempio devono darlo tutti. Quindi questo è assolutamente bello, positivo, e tutto ciò che in maniera anche molto spettacolare in alcuni casi, come queste maglie dei giocatori inglesi, viene fatto, secondo me va nella direzione giusta, che è quella della normalità, cioè quella semplicemente di far capire che non c'è più spazio, non c'è più spazio per questa roba, e noi tutti dobbiamo stare da questa parte. No, noi... E complimenti a voi due che date lo spazio necessario per parlare di queste cose. Grazie Massimo, ti chiamo al primo episodio da VAR, Oddio no! Okay. Episodio dubbio da VAR, ieri, ma ti pare rigore, già c'è stato, mi pare, la Juve, può capitare a chiunque, ma insomma, va bene, anche Gasperini si è arrabbiato molto, però devo dirti che secondo me c'è una, questo secondo me è abbastanza interessante, c'è una un'incidenza della mancanza del pubblico, che ripeto, lo dico ormai da 3 mesi, è una cosa che non ci piace, e speriamo che prima possibile possano tornare allo stadio, perché sono di una tristezza incredibile le partite senza pubblico. Però che dal punto di vista dei comportamenti dei giocatori mi sembra che questa cosa si nota, c'è un comportamento più... Però per quanto riguarda la VAR dobbiamo ammettere, almeno io, che abbiamo spostato la polemica dall'errore del campo all'errore di quel signore che sta lì davanti alla come la pensi? Io sono dell'idea che il VAR serva, che quindi sono favorevole al VAR, ma sono anche dell'idea, come dico da sempre, che quando ci sono gli errori al VAR, che sono di meno degli errori, se fanno molto più rumore, fanno molto più male, perché Perché uno dice ma come è possibile, ecco. E la seconda cosa è il regolamento, perché l'abbiamo detto senza rientrare, ci sono mille fattispecie che tanto capiteranno, figurati se non ricapiteranno, mille situazioni che sono veramente borderline, quindi si può discutere la vita. Il calcio di contatto, Piero. Ah, questo sicuro. Nessuna moviola potrà essere certo al 100% di dire la verità. Sì, sì. Questo io l'ho sempre pensata come te, caro Massimo. Ciao, grazie. Ciao, Pierluigi, saluto anche te, vado al Bartur. Ciao, abbracci. Borsa e poi Bartur. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. Vi presento. Tutti convocati. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Buongiorno ragazzi, Marino Bartoletti e Leo Turrini. Buongiorno, bella sta canzone, immagino che sia dedicata a Alex Zanardi per due motivi: uno, perché è una delle sue canzoni preferite, si chiama My Way; due, perché nulla può fermarli in questo momento, non si può fermare. Mi sono stupito di una cosa, poi do la parola al mio ben più importante socio: che il direttore artistico occulto non abbia scelto una canzone di Vecchioni, di cui domani è il compleanno. Per esempio poteva mettere Gli insegnerò a volare, che Roberto Vecchioni ha dedicato un po' di tempo fa proprio a Alex Zanardi. Sì, come hai scritto tu peraltro, perché ti leggo con attenzione, mio caro professor Bartoletti, giro a Leo Turrini, è un 2020 che non ci lascia in pace, si è portato via in due giorni i grandi numeri 11 di Milano. Avete ragione, innanzitutto lasciatemi esprimere la felicità di ritrovarvi insieme. È una piccola cosa, da quando sono state riaperte le frontiere regionali, congiunti, eccetera, fra te e Marino, mi avete lasciato solo, come se fossi un randagio, ma io vi voglio bene lo stesso. No, a dire la verità, se l'ultima volta sei tu che hai paccato, infatti Marino non l'ha presa bene. No, voi siete più giovani di me, avete queste funzioni ormonali, quindi insomma, vabbè, lasciamo stare. Però lasciami aggiungere una cosa: io ho conosciuto, dato che è stato avvocato, Alex Zanardi, ahimè, molti anni fa, eravamo all'alba degli anni 90, lui debuttava come aspirante campione in Formula 1, io ero già un giramondo cronista negli autodromi. Quello che io vorrei dire a chi ci ascolta, chi è in strada, chi è in coda come me sulla Pero Cormano: guardate che Alessandro è sempre stato come lo avete visto dopo, dico dopo le vicende che lo hanno trasformato meritatamente in un simbolo nazionale, una persona trasparente, una persona onesta nei confronti di se stesso e del prossimo, e soprattutto un simbolo, anche se può sembrare retorico dirlo, dell'italianità migliore. Io voglio bene a questo ragazzo come se fosse non un mio figlio, perché ci sono solo 6-7 anni di differenza, ma tra me e lui, voglio dire, ma come una figura ideale che ci aiuta a credere in una cosa: non è vero che nel mondo il bene non esiste. Io faccio il tifo per lui in queste ore, come tutti, eccetera, eccetera, eccetera, proprio anche per questo motivo. Perché noi dobbiamo Zanardi una consapevolezza: che non è vero che dobbiamo essere governati dall'invidia sociale, dal rancore, dalla cattiveria. Il bene esiste, e grazie a questo amico mio Emiliano per tanti anni, spero ancora per tanti anni in futuro, ne abbiamo avuto la testimonianza diretta. Vi ringrazio, vi voglio bene, però se mi fate buca altri martedì perché avete le congiunte, scusatemi. No, beh, insomma, resta da chiarire dove fossi tu l'altra volta. Voglio finire questo mio commovente intervento con una cosa che certo il mio maestro Bartoletti riconoscerà come autentica. È ripartito tutto e infatti com'è come non è rigore per la Juve, è fatemelo dire, com'è come non è rigore per la Juve, di Coppa Italia o Serie A, è rigore per la Juve. Grazie, andate avanti. Ma voi. C'era e comunque c'era, no? Dice a me? Dico a chi l'ha visto. C'era, devo dire che lo stesso Mihajlovic, altra notizia bellissima, l'abbiamo rigore per la Juve, Marino, è una certezza. Il mondo è ricominciato, e mettilo anche tu, va bene, lo dico mica che non c'era, però è rigore per la Juve, giusto? Secondo me è l'interista che sta in te che sta parlando, no, una specie di matriosca. Rigore per la Juve, Marino, dai, getta la maschera, confessa. Siamo tutti più sereni, più tranquilli, il mondo è come prima, è rigore per la Juve, e siamo tutti meglio. Grazie, ma gente, dove è stato queste settimane, gente? Quante congiunte ha, gente? No, perché ma posso... io nessuna. Oggi è incontenibile il maestro Turrini, eh? Incontenibile. Comunque hai ragione, è il piccolo interista che è in lui che sta parlando. Il piccolo interista che è lui sicuramente oggi soffre per una, se non tutte e due le persone che ci hanno lasciato in questo maledetto 2020, che per fortuna fra sei mesi finirà, perché che altro può combinarci ancora? Io sono molto rattristato da quello che accade in quest'anno, non ho mai creduto alla balla degli anni bisestili, non credo neanche tutto sommato alla cronologia del tempo dettata dagli anni, perché non è che una cosa che accada il primo gennaio dell'anno successivo sia rubricabile se non fosse accaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, però effettivamente siamo una specie di Punjimbo da cui prendiamo pugni dappertutto in questo momento. La cosa ci fa male. Ci fa male perché poi sono tutte persone, per fortuna quelle sopravvissute, parliamo di Ale Zanardi, che ci ha sempre insegnato che le brutte notizie e i casi pessimi della vita vanno trasformati in opportunità, e ce l'ha dimostrato coi fatti. Altri invece ci hanno veramente lasciato, in questo caso le bombe cadono vicino, caro Leo, perché se ne sono andati due grandi numeri 11, parliamo di Prati e di Corso, accomunati e divisi da tante cose, accomunati dal numero sulla schiena quando i numeri erano veramente delle cose che contavano, anche se ovviamente lo interpretavano in maniera assolutamente diversa. Accomunati... Ma io voglio dire una cosa, sapete che al suo tempo è uscito un libro che parlava di altre cose, che si chiamava La leggenda dei numeri primi, qualcosa di simile, no? E in questi giorni malinconici, l'addio di Marialino Corsi, Pierino Prati, a me è venuta in mente una cosa che Marino potrebbe scrivere benissimo, La leggenda dei numeri 11, perché se ci pensiamo, Marialino Corso era il simbolo dell'Inter di Herrera, un po' svagato, un po' pigro, faceva cose meravigliose con il suo mancino. Mio fratello Edmondo Berselli gli dedicò il suo primo libro, Il più mancino dei tiri, e Pierino Prati, detto la peste, subito dopo, quasi una staffetta cronologica, fu il simbolo del grande Milan euromondiale di Nereo Rocco. Io non lo so se i più giovani, quelli che adesso stanno viaggiando in macchina, sentono la radio, riescono a capire quello che io e Marino, non dico gente che è un ragazzo, ma ciao. Quello che io e Marino proviamo di fronte all'addio di figure come Corso e come Prati, perché veramente hanno rappresentato in quell'epoca là l'Italia degli anni 60, il boom economico, i Beatles, tutto quello che volete, e poi c'erano queste suggestioni incarnate dal calciatore. Tra l'altro, guarda, una cosa, Marino, che io e te ricordiamo molto bene perché abbiamo 90 anni, giocavano tutti e due con i calzettoni abbassati, vero. Sia Corso che Prati, imitando... Infatti lo stavo dicendo prima, erano delle cose che li accomunava, tutto li accomunava, purché l'approccio naturalmente con la tecnica calcistica. Corso era dell'Inter, Prati era del Milan, il rigore lo fischiavano sempre a favore della Juve. E adesso andate avanti voi, così lo vi rilascio. No, io non vado avanti, sai perché? Ragazzi, voglio solo dire che io mi sento come Mino Reitano dopo i Beatles quando cantavano assieme allo Stern. Non ho nulla da aggiungere. Allora, sono io reitato. Allora ci fermiamo per il traffico, perché poi c'è in mezzo a tutto questo uragano di sfighe interplanetarie, ogni tanto c'è qualche raggio di sole, come ad esempio, e voglio sentire la vostra opinione dopo il traffico, c'è Rino Gattuso che alza una Coppa Italia che somiglia un po' a Caro Bartoletti alla Coppa dell'Amicizia. Arriviamo subito. Bartu, sei unico. Meno male che ci siete, ragazzi. Dio vi benedica. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Perché lo store GBM? Perché così siamo operativi 24 ore su 24, momenti di crisi compresi. Per il supporto dei partner, i servizi, il prezzo, imbattibile. E perché fino al 30 giugno c'è l'offerta di locazione, con primo canone dopo 3 mesi. Hai un'infinità di motivi per scegliere IBM Flash System. Scopri di più su ibm.com/it/PMI. Messaggio pubblicitario. Offerte di locazione di 3 più 33 mesi soggette ad approvazione di IBM Italia Servizi Finanziari. Fogli informativi dai rivenditori. Tutti convocati. Dicevamo di quel raggio di sole, Marino, cioè Gattuso che alza Coppa Italia. Io ne sono stato felice, al di là del Napoli, della Juventus, del Milan, dell'Inter, di tutte queste robe qui, sono stato felice per lui. Diceva un po' come la Coppa dell'Amicizia. La Coppa dell'Amicizia ce l'ho davanti, amico mio, perché sono uscite le prime 20 copie e una di queste sta già marciando verso via Monterosa. Grande. Il mio socio se la dovrà meritare. Comunque parla veramente di amicizia e ti dirò che quella coppa si svolge a Napoli, quindi quest'anno c'è una deriva molto particolare. Parliamo del mio libro per ragazzi della serie La squadra dei sogni, di questo inaspettato endorsement. Allora Gattuso, è chiaro che dobbiamo sforzarci nei limiti del possibile di essere liberi, indipendenti, distaccati dalle cose. Io sono amico di entrambi gli allenatori, a cui voglio bene con modalità chiaramente diverse. Però è abbastanza difficile non essere felici per Gattuso, per quello che in qualche modo, non dico che il destino gli ha restituito, perché nulla è restituibile di quello che gli è stato tolto, però vedere quella felicità nei suoi occhi per noi amici che gli vogliamo bene è stata una gioia impagabile. Rino è una persona straordinaria, io lo conosco veramente da quando era ragazzino e si chiamava ancora Gennaro, poi è diventato Rino quando è cresciuto, curiosamente. È un uomo di grande cuore, è un uomo di grande realtà, è un uomo di grande onestà, è un uomo di grande preparazione calcistica ed è un uomo a cui non si può non voler bene. Vederlo con quella coppa moderatamente felice, perché credo che la felicità non appartenga a questo suo momento, credo che sia stato qualcosa che a chi gli vuole bene, ma anche se non soprattutto ai neutrali, non abbia che potuto far piacere. Sì, lì il regolare Juventus non l'hanno dato, Leo? Leo? Sì, no, guarda, quello che ha detto Marino su Gattuso secondo me è definitivo. Io non lo conosco Rino di persona, ma posso immaginare quello che ha vissuto, le sue vicende umane, familiari, così, ed è vero, a prescindere da qualunque altra considerazione, che chiunque abbia un'idea sana dello sport, del calcio, ma vorrei dire anche della vita, è stato contento di vedere che aveva ottenuto questa soddisfazione sul campo. Tra l'altro, quel discorso che grazie alle porte chiuse abbiamo potuto in qualche modo ascoltare in diretta televisiva, no? Rendeva molto l'idea del personaggio. Io sono innamorato di Al Pacino, ho visto quel suo famoso film Ogni maledetta domenica. Non so se Gattuso abbia visto, però chi lo ha ascoltato ha detto: ma qui è la finzione cinematografica che si ripropone nella realtà. E a questo punto io non escludo neanche che il Napoli ad agosto vada ad eliminare il Barcellona. E sarebbe bello, sarebbe bello. Sì, perché io sogno una finale di Champions, ve lo dico, Atalanta-Napoli, così non abbiamo dubbi su eventuali concessioni di calci di rigore. Ma in Europa sono un po' meno. Bellissimo anche per voi due. Che non si sa dove andate il martedì con le congiunte, mi lasciate sempre solo. Non è ancora chiarito dove sei andato tu un paio di martedì fa. Per voi che traciva. Senti, ma ti fa più effetto. Ti fa più effetto vedere Hamilton in corteo a manifestare o una Ferrari al Mugello a provare in questi allora, giorni? Allora, diciamo questo, che intanto Hamilton è un grandissimo, ne avevamo già parlato insieme, perché non è tenuto, nel senso che voglio dire, un personaggio della sua popolarità, della sua celebrità, a mettersi in gioco in questo modo per difendere quella che è una causa nobile, famoso Black Lives Matter. Io penso di Hamilton che sia un pilota straordinario, della generazione del Senna, dei Schumi, eccetera. Ammiro moltissimo questa sua partecipazione sociale, chiamiamola così. Abbiamo cominciato con Zanardi. Tenete presente che Hamilton ha un fratello disabile, non lo ha mai voluto tenere nascosto, eccetera. E questo me lo rende veramente vicino, giustico, da un punto di vista umano. Per quanto riguarda la Ferrari, il Mugello con Leclerc e Vettel, voi sapete bene che qui siamo un po' alla riedizione della famosa pochade del grande teatro francese, no? Separati in casa, eccetera. Ne vedremo delle belle. Insomma, Carletto ogni più è sospinto, è un personaggio, come si usa dire oggi, social, e la carbonara da Catalan, e il film con le luce, e l'uscita dalle officine di Maranello per le strade con la vettura da Formula 1. In tutto questo Vettel è letteralmente scomparso. Pensate un po' cosa potrebbe mai accadere se il primo Gran Premio fra meno di 2 settimane in Austria lo vincesse Sebastiano. A quel punto saremmo di fronte a una cosa, non lo so, che richiederebbe l'intervento del Premier Conte o forse una mediazione di Di Maio, ministro degli esteri, ma in ogni caso io mi affiderò alla saggissima opinione di Marino Bertoletti, che poi posso dire il pastore della mia vecchiaia. Io e Marino eravamo insieme a Nuvolari e Varzi 80 anni fa, sappiamo bene come sono le cose, da questi piloti che fingono di volersi bene in realtà si detestano. Pare che al Mugello stamattina Vettel abbia tagliato le gomme della Fiat con la quale Leclerc era arrivato lì al sì, però pare anche che Leclerc gli abbia fatto una riga con un chiodo sulla fiancata della multipla metano. Vettel, mangiati una carbonara alla panna. Cioè sono cose che dovremmo approfondire in questi spazi su Radio 24. Sarà un'estate meravigliosa, ma ricordatevi, gente, il martedì non c'è mai, perché delle congiunte del militare e comunque sempre rigore per la Juve. Leo Torino la coda di paglia, voglio bene, quindi la coda della Pero Corbano, venite a soccorrermi, fa un caldo porco, portatevi una bevanda fresca, grazie Marino. Io ho felicemente riacquistato il mio ruolo di ascoltatore oggi, guarda. È meraviglioso ascoltare Leo quando è così in forma, però io la Ferrari l'ho vista l'altro giorno, perché sono andato a trovare un mio amico che abita in provincia di Pesaro, anzi due miei amici che abitano in provincia di Pesaro, uno più anziano e uno decisamente più giovane. Tu sei figlio da Graziano Rossi e Valentini. E vi portano, vi porto i loro saluti. Sì, io sono stato lì tutti insieme con tutte le congiunte, avete fatto bene. C'era una sola congiunta. Quando fate queste robe qui non ti chiamate mai tu e gente, non si capisce bene come sia. Mi chiamate solo in diretta alla radio il pomeriggio che io sono in coda alla Pero Corbano. Ma chiamatemi qualche venerdì sera, no, non lo so, io vengo, Però, Marino? Però volevo dire che io l'ho vista una Ferrari, perché sono stato ammesso nel sacro garage di Valentino e c'è del buono, devo dire lì, c'è del buono assolutamente. L'ho trovato in forma, ho visto la famosa Yamaha con cui dorme nella camera da letto, ma credo che non sia sola la Yamaha in questo momento, e lui ha tutta la mia solidarietà, perché ha vicino a sé una ragazza meravigliosa. Parlando delle due ruote rapidamente, l'ho visto motivato, gli voglio bene, anche lui l'ho visto da bambino come Gattuso. I miei ragazzini crescono, anche troppo come nel caso di Valentino, e non posso... perché mica penserete che parlo di Valentino Rossi, no? No, assolutamente. Non ci sfiorava meno lontanamente l'idea. Ragazzi, martedì prossimo però ci siete, no? Io ci sono, l'altra volta non c'eri. No, voi adesso avete sempre gli ormoni che sparano, va bene. Ma c'è stato il lockdown, io vi giustifico. Va bene. Ciao ragazzi, grazie davvero come sempre. Alla prossima, Marino Bartoletti, Leo Turrini. Io ringrazio anche Danilo Di Trani in assistenza con Edoardo Ravezzano in redazione, Filippo Voreggi, no? Molto meglio, Roberta Frisani in regia con Gianmarco Ferronato. Tutti convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.